strada. E vaffanculo, e non pensare che sia tanto bello. Bella la figlia, bella la mamma, e quella voglia di stare sull'onda, onda di mare, fuoco di paglia, di lavorare ci scappa la voglia. Il musicista lascialo stare, perché di lui non ti devi fidare, per ben che vadi ti può portare direttamente al piano dei babi. 4 più 4 fa 8, è quasi ora di fare il fagotto, fare dei versi e giocare di quando ci pare. O ti puoi buttare giù dalla finestra, non ci pensi più. Prendi un calmante però, perché non si sa mai. Prendi un'altra strada e vaffanculo, e la seconda volta è già più meglio. Bella è la storia di quella figlia che alla bici ha tolto la sella, e dopo poco si era incorgiuta che la sua gonna si era stringiuta. Oh mamma cara, che devo fare se la mia gonna non si può slargare? Mia cara figlia, non disperare, prendi la bici e fatti sposare. 4 più 4 fa 8, è quasi ora di fare il fagotto, fare dei versi e giocare fin quando ci pare. O ti puoi buttare giù dalla finestra e non ci pensi più. Prendi un calmante però, perché non si sa mai. Se vuoi andare in quel posto, non devi avere neanche il pretesto. Prendi un calmante però, perché non si sa mai. Prendi un calmante però, perché non si sa mai.